sedevi sicuro sul tuo ponte da falegname, sicuro di ritrovarti nell'infinito, io ne ho perso le vie. Tu ancora ti dibatti, io non posso più ricordare d'esistere. La miscela è troppo fine, il ricordo è troppo tagliente, l'incastro è troppo vivido. La luna, ed ora oso vederla, è troppo triste. La luna pende, io muoio, gli uccelli si dibattono, la malattia non ha diritto d'esistere, l'uccellaccio ti rincorre, io vomito, io tu no. Ed enormi pinete attendono in riva, ed enormi flutti di mare, ed enormi stesure di sabbie, stancate e scoperte calanti al di fuori della città che le ricorda. Topo d'inferno, topo orizzontale, topo d'incontentabile seduzione, topo tropicale, topo sbiancato nella memoria, impadronitosi delle mie forze, topo arcigno e spietato, sapiente topo, mercato di topi, lunga notte di topi, mercato di topi e di ferramenta. Io sono grande e piccola insieme, le vostre furie mi toccano e non mi toccano, la mia malattia è diversa dalla vostra, il mio santuario non è quello di Cristo, e lo è anche forse, se troppo insidia la spada alle mie spalle. E seguendomi gli sarà mite e puro come gli arcangeli.